cacciati. Siamo abituati da mattina fino a sera con coglioni girati. Chi trova un amico trova un tesoro, e basta mantenere solo un po' di decoro, perché chi dorme non piglia pesci. Ma dimmi chi ti ha detto che da sveglio ci riesci. La vita, sai, è fatta a scale, e devi stare attento sempre a non inciampare. A bocce ferme si sa chi ha vinto, a bocce movimento se fai sesso spinto. Lo sai che chi fa da sé fa per te, perché se no il due non c'è. Difatti non c'è due senza tre, difatti non c'è due senza tre. Lo sai che chi fa da sé fa per te, perché se no il due non c'è. Difatti non c'è due senza tre, difatti non c'è due senza tre. Perseverare no, è diabolico, ma io non lo so. Perciò alzo il gomito fin quando vomito, e tutto appare un po' più comico. Chi lascia la via vecchia per quella nuova, e sa quello che lascia ma non quello che trova. La lingua batte dove il dente duole, è come se dicessi che sto bagnato piove. Chi nasce affitto e muore sconsolato, chi nasce tonto non può morire quadrato. Gallina che non becca ha già peccato, e la saggezza non nutre la sua mano. Lo sai che chi fa da sé fa per te, perché se no il due non c'è. Difatti non c'è due senza tre, difatti non c'è due senza tre. Lo sai che chi fa da sé fa per te, perché se no il due non c'è. Difatti non c'è due senza tre, difatti.